scattano tutti questi cazzo di baracchini e baraccone. Questo è il Typhoon, vabbè, questo è Colt, anche l'altro Colt, poi trovo l'8001, trovato il Ranger, il 3009, e tutti dentro la scatola, sono a terra, ci porto in campagna e tolgo a mezzo le palle. Ho dato una foto a Gianni anche. Questo è il Typhoon 2, cambio. Diciamo che la radio potrebbe essere più limpida, forse c'hai qualche watt in più, può essere. E questo c'ha la regolazione dei watt. Però è cacchio, meglio, già forse un tantino meglio. Poi ti ho attenuato perché magari l'eccessiva vicinanza ti mandava in saturazione appena appena. Sì, io non ne faccio nemmeno più girare, ormai possono mettere anche la muffa, guarda, non me ne ha fatti nulla. Ho acceso così per sbaglio, vado a vedere se si accendeva. E ho trovato te, dai. Facendo prova, anzi all'inizio non ti avevo riconosciuto, perciò io prima ho fatto e non ho risposto a cui. No, già ti ho riconosciuto io, non c'è problema. Gappa gappa, va bene. Lo stavo dicendo, niente, vabbè. No, visto perché sto smontando l'armadio, le basi le ho già tolte, ho tolto tutto e... tra le scatole, non sono nuove nuove, belle radio veramente. Questo è il Typhoon 2 Colt, poi c'ho anche l'8001 Colt, c'è il Ranger, bellissima radio Ranger, RC2950, molto bella, sta digitale, fa la 25 a 30 e c'ha 35 watt, molto bella, è il Magnum, grande così. Va bene, e tutto a posto? Sì, oggi vabbè, mi sono autogirato le balle. Nel pomeriggio volevo andare a Plattamona, pigliare un gelato per conto mio, solo che ho detto devo pigliare la macchina, andare lì, pigliare il gelato, ritornarmene, non trovare parcheggio, ho detto alla fine mi volevo mettere anche il ricevitore per ascoltare eventuali radioamatori, ho detto ma chi cazzo se ne frega, scusando il termine, se voglio li posso ascoltare qui da casa, insomma sono abbastanza in fase negativa oggi. Ho detto mando vado io, dove vado io? Pensa che mi ha chiamato anche un'oretta fa Ivan, mi ha chiesto se andavamo a fare un giro a Plattamona, anche a lui voleva la stessa idea. E gli ho detto che non avevo voglia di uscire, stavo facendo altro e me ne sono rimasto a casa. Pazienza, non so, certi giorni proprio che non ho voglia di fare nulla, non me ne ha fatti nulla, me ne sono buttato a casa, a letto me ne sto. Adesso meglio a letto. Sì, vabbè, però bisogna uscire, vai. Sennò è un casino. Sennò è un casino. No, io sono sempre in campagna, ormai sono trasferito quasi al 100%, però ho ancora da fare qua, allora oggi mi sono dedicato a fare questo. Le basi le ho già tolte, c'ho un appoggio per provare queste radio, perché le ho messe anche tutte in vendita, tutte in blocco, sono 6 mi pare, 6 o 7, compresa anche questa. Sono radio molto belle, questo è il Typhoon 2, c'è il Ranger, il Superstar 3009, ricordo anche quello, e poi c'è l'8001 che ricordo anche quello, quella radio, questi, perché tanto sono da anni dentro gli armadi e non ci fanno niente fuori. Il coso l'ho già messo dentro una scatola, il DAC, altre radio, poi vabbè ce l'aveva il 48, poi quanti soldi buttati in cassa, se tu ti immagini per fare una radio di queste ci vogliono 350 euro, io le sto dando tutte e sette a 350 euro. Svendute, per non dire regalate. E d'altronde più non, purtroppo ho provato io a vendere quelle, nuove di 3 mesi, nuove di 6 mesi, non ti danno 100 euro, non ti danno. Oi. Cioè radio pagate 200, 230, nemmeno 100 euro, ti vogliono dare in permuta, a me, mico, parlo di me, vogliono dare baracchini vecchi più 50 euro. La gente sembra che non... vabbè. No, io non tento nemmeno di venderli perché tanto so che è inutile. Spenderli, non li voglio spenderli, non li voglio buttare così. Allora li butto nel cassonetto e non ne tocca a nessuno però. Sì, ma alla fine è così, Marco. Alla fine è proprio così. Così tanti, ma questo è un peccato, eh. Cioè, le foto sono nuove veramente. Lo sai, io sono malato per queste cose. C'è il Ranger che è bellissima digitale, c'è un frequenzimetro grandissimo. Questa non è digitale, questo è il Typhoon 2, però è Colt, capito? Questa è Colt, questa sono tutte radio che avevano fatto in continente. Ne ho tre così, mentre il Ranger è normale. Sono una, due, tre, due, cinque, sì, sono, sì, belle radio, e poi i microfoni, perché ne ho un bel, siccome le intenzioni sono altre, non mi interessa neanche molto, allora, per non stare lì a tenerle ancora dentro l'armadio, non gli ho detto, ma dalle, ma cosa te ne frega. Vediamo, Sì, comunque, vabbè, ho acceso adesso, ma non ci sono radioamatori nemmeno sul canale radioamatoriali, no? Nel pomeriggio, non lo so se ci fosse qualcuno, c'è qualche disperato in PMR, come al solito, sembra che non esista altro che il PMR, ma... Forse sul 20 c'è anche qualcuno, ho visto una portante per un attimo, boh. Ma stavo spazzolando in fretta. Beh, le radiomature sono trasferite nel canale 20 adesso, già da qualche giorno che sento qualcosa. Mi pare ci fosse anche Gianni poco fa, ma io, ti ripeto, sono indaffarato, non per seguire i cazzi degli altri, ma sono indaffarato e sto smontando la stanza, quindi ho... Noi sono stato lì a guardare, ma mi sembra aver sentito la voce di Gianni, mi è sembrato lui, dalla modulazione. Sì, è già un po' di giorni che ci attivo nuovamente il canale 20, appunto dei radioamatori, che provano e riprovano, quindi se vuoi ascoltare o chiacchierare puoi andare anche lì, non c'è problema, io tanto sto facendo. Fischiando qua sul 10 perché io sto sempre qua per trovare questa vecchia baldracca, vero che funziona sempre, non sai quanti anni è dentro l'armadio, boh. un bel di anni, va bene Marco, se hai da fare non c'è problema, non ti preoccupare, io sono qua ancora qua. Ehi. No, ho acceso nervosamente perché ho comprato un cavetto da Amazon per l'hard disk. L'ho anche provato, va tutto bene, funziona, tutto quello che vuoi. Questo l'ho provato ieri notte tardi. Vado a prenderlo oggi, è sparito il cavetto. È un cavetto lungo mezzo metro, è un cavettone, non è una cosa microscopica, sparito. qua sicuramente ci mette la chicchia il diavolo, perché non è umanamente possibile che sia scomparso avendo usato poche ore prima nella mia camera. Non è, è una cosa che non si crede qua. E che se lo guardate una volta stavi cercando non so che cosa e non l'hai trovato. E due sono le cose, mi ho sentito disordinato o c'è qualcuno che ti prende la roba, o se lo metti di chiappo. No, quello non l'ho più trovato, quel rosmetro lì a codatore. Magari io distrattamente cercando altro l'ho poggiato, l'ho buttato in mezzo a roba, magari roba di vestiario, cosa ne so io? Tutto è possibile. E pazienza, invece non trovavo più un adattatore da SMA, no, da BNC femmina a SMA femmina, sì, BNC femmina e SMA femmina, io ce l'avevo la sera prima, era andato, insomma, sparito, ho trovato ieri a terra, si era nascosto dietro la gamba del tavolo, pensa, quindi ce l'ho ritrovato qua. Però quel rosmetro sparito, secondo me è stato buttato per sbaglio, perché come ho già detto altre volte qua, troppa gente ci mette mano qua, capito? Scusa, pulire, buttare, magari in una busta c'era roba apparentemente vecchia, magari c'era quello in mezzo e è stato avviato anche quello lì al cassonetto. Pazienza, io già non ricompro più niente, ma nemmeno un rosmetro. Pazienza, quando si rompe l'antenna resta rotta, la levo pure dal tetto, mi sa, quando si romperà, però finché non si rompe resta lì. Bisogna avere un po' di pazienza, purtroppo le cose a volte le appoggiamo e poi non ci ricordiamo dove le abbiamo messe, capito? Va bene, sono le cuffie, non riesco a regolare le cuffie. Questo favore, non mi sembra giusto uscirmene per conto mio, no, andare a Platamona, allora prima dovrei andare da lui a fargli questa cosa che gli avevo promesso, e poi prima il dovere e poi il piacere, capito? Vabbè, peccato perché era una bella giornata, vabbè, pazienza, ci migliorerà il tempo adesso, piano piano, molto piano arriva la primavera. Ti posso dire che già non sta facendo il tempo brutto, sta facendo un tempo bello, già va bene. Sì, guarda che quella cosa che ti ha chiesto Antonello, te l'ho chiesta io ad Antonello, lo faccio presente, che è per un carissimo amico mio, ha comprato quelle due cose che tu sai, però vogliamo programmate, che le servono per lavoro, capito? Quindi fammi la cortesia doppia, a lui e a me, fagliele Marco lì, che le servono per lavoro, capito? Io purtroppo non ho quell'attrezzatura e quella capacità, altrimenti le avrei fatto io. E quindi ho chiesto al Tonello di chiedertelo, di dirtelo. Avrei potuto telefonare anch'io, ma siccome era incasinato, ho detto se ne è occupato Antonello, capito? Perché lui si conosce con Antonello e li ha portati ad Antonello. Tutto qua. Guarda, lunedì, domani sono costretto ad andare lì dall'Eurospin per l'acqua, per la sabbia, per piccole cose, quindi passerò a farmele dare, ma per lavoro, ma che lavoro può fare uno con delle radio fuori legge, che fanno 400-470? Per lavoro, se ci vuole una radio approvata a Cosa Civile, già lo sai, no? Lo dico per lui, no? Sì, lo so, ha sbagliato a comprarli e poi non li hanno cambiati. Quindi infatti Antonio ha detto se era possibile metterne una e basta, bloccarle tutto il resto. Lui mi ha detto che sicuramente già si può fare. Non le servono in campagna, le servono, ma niente di che, no, è una persona abbastanza seria, no. Te lo dirà lui chi è, qua no, non te lo dico. Però è una persona molto seria, non è di Sassari e Antonello la conosce molto bene, capito? Le serve per lavorare in campagna, perché si spostano molto spesso con trattori, anche quando sono in postazione a caccia, capito? Solo per quello le serve, perché poi per il resto non ha nessun problema, Marco lì, capito? Ma diciamo che non è che abbia sbagliato a comprarle, diciamo che costavano poco dai cinesi, allora qualsiasi radio va bene. Sì, gli mettiamo canali PMR, almeno è banda, no, non è roba amatoriale, capito? PMR, eccetera. Ma però in caccia che li usino con discrezione, perché lo sai perché, no? Vabbè, sono affari loro, ma io ho cercato il programma poco fa, ho trovato il programma, si chiama BF480 e fa tutta quella gamma di radio lì, quelle senza la tastiera, tutte. Il cavetto ce l'ho, ce l'ho tutto, devo solo andare, programmare e riportare, ok. Che poi ho letto un giornale sulla nuova che Sassari rischiava di chiudere il compartimento della polizia postale, no? Se non che sono riusciti a salvarlo questo compartimento mandando un nuovo dirigente, quindi riuscendo a tenerlo aperto. Capito? Quindi c'è sempre la spada di Damocle, ce l'abbiamo sulla testa. Io non so che. Così, aspetta, tolgo questo cacchio di coso. Ora, aspetta. Ecco qua, lo vogliamo così. Così mi posso tirare un po' più sul Mickey Gain, dai. Sì, Marco, è così, non c'è problema. Non problema. Stai tranquillo, intanto non è di Sassari, è abbastanza distante, quindi non c'è frega niente. Tu infatti per quello mettile solo PMR e basta, capito? Solo PMR e basta, così non abbiamo problemi. Io ho visto tutto regolare. Vabbè. E cosa stavo dicendo? Un'altra cosa? Io giornali che sono rincoglionito, mamma mia, deve essere una tara ereditaria. Buonasera, posizione bene. Vieni avanti, Flavio, ti do un controllo, vediamo un po' come stai uscendo. Cuffa, mi sembra cuffa. Io non ho capito niente, stai usando il... Non mi piace la radio, Fra, sinceramente, è molto cupa, molto, molto strozzata, no, non mi piace. Non so se puoi fare qualcosa, ma no, non mi piace. Non è la radio che hai provato con me, il baracchino che hai provato con me, quello andava molto bene, questa non mi piace la radio. Rimbombante, molto faccio così, sì, rimomba meno, ma è cuffa, è indiscutibilmente cuffa. Pensa che il mio baracchino riceve anche acuto, ha una tonalità di ricezione acuta, ma lì è... Claudio, diglielo tu. Sì, è molto acuta, uffa. Stai provando il presidente Lincoln, ho capito, con... vabbè, ti ricordi che sto ricevendo col Typhoon 2, quindi mai la colonnina, non è poi la colonna esterna, vediamo se riceve meglio, ma... con l'MC60, così hai detto? No, negativo, è acuta. La radio com'è? Vieni a vedere. Questo è l'M300, questo va molto meglio, però devi fare le regolazioni, Fra. Devi fare delle regolazioni per darti la tonalità buona, capito? Qua che regolazione devi fare? Questo microfono non si può fare nessuna regolazione. Non si può fare. Questo è molto meglio comunque. Comunque Claudio ha detto acuta, no, non è acuta. Acuto è il mio baracchino che riceve. Quella è la cuffa. Questa va molto molto meglio. Cappa. Questa è quasi perfetta, Fra. Questo è quello che ti avevo dato io, la M300. Cappa. Questo va bene. Così va bene. No, io sto usando la radio Colt. Adesso poi stacco questo al Typhoon 2, attacco l'8001 a vedere se funziona ancora e poi le metto il 30 mascato. Quello che mi hai sentito tu invece era il Ranger, però quella non è Colt, questa è Colt, Fra, capito? Quindi anch'io stavo poco fa facendo le prove con Marco, dicevo, quella. Stavo facendo delle regolazioni per così, poi sono sicuro che quando verranno a prendersele sono tutte funzionanti. No, questo va bene il microfono, Fra. Così come l'hai regolato adesso va benissimo la grande. Esatto, lei. Sì, mi sono infezionato tutti i microfoni, tanto per vedere se vanno, dai, perché è troppo tempo fermi. E c'era qualcuno che non girava neanche le vette. No, oh, questo è perfetto, Fra. Questo così è perfetto, vero Marco? Marco! Eia, un attimino che ho acceso il gas lì sotto la pentola. Sì, questa è nettamente migliore, è chiara. L'altra, Fra, appena si è entrato era molto rimbombante e quindi non si capiva molto, infatti Claudio non capiva, era proprio effetto stanza, più l'effetto cupo, cappa. Sì, è verificato, però da tanto tempo che non accende, nuovo, e tanto tempo che non lo mettevo in funzione, capito? In effetti, probabilmente c'è anche la batteria che non sta a terra, perché... No, no, va bene comunque, va bene. Volume c'è, a voglia. È importante che ci sia volume. Va bene, signore, continuate un attimino che sto facendo una connessione a un altro microfono. Eia, 5, aspetta, stavo con la 5, 6, 7, 8, 8 e mezzo, 9. Stavo facendo un conto. adesso Claudio mangio qualcosa e poi vediamo. Sì, oggi ero proprio abbastanza giù di... Pensa che anche sabato mi ha chiesto Ivan se andavamo a pesca nel pomeriggio. Ho detto, ehi, c'è di che non vado a pesca, sono disorganizzato, non... ho le lenze marce, io fui a comprare le esche, 7 euro di vermi, ma non ti innandi, a meno che non prenda bigattini, sono poco, ma non... non sono come gli americani che perdono sangue, capito? E niente, gli ho dato forfè ieri, gli ho dato forfè oggi, brutto segno, lì sono abbastanza giù di morale. Ma quando uno è a voglia, sì, uno è a voglia, non ti perché che ci siano molti discorsi da fare. Dai, mangia, mangia, io sono qua, intanto che sto pulendo questi microfoni, così li metto dentro la scatola, sono qua, Marco, non problema. Aia. Aia. Comunque se ci devo buttare baracchini, mi dispiace, ma proprio li voglio buttare, nessuno li deve avere, però non li butto funzionanti, li tolgo il coperchio, lo metto nel microonde, attivo il microonde e gli faccio saltare tutta la pista e i componenti elettronici e poi ce li butto, capito? Così non do la soddisfazione a chi li trova di venderseli al pidocchio o usarseli. Assolutamente d'accordo. Per fare una cosa del genere li schiaccio, capito? Io questi li sto regalando, te l'ho detto. Ce ne sono tre Colt e uno lo stai sentendo, poi da Colt 2001 che sono stati spesi la bellezza di 350 euro a radio. Però siccome non hai fatto niente, grazie a Dio, non ho bisogno di soldi. Allora, li sto mettendo dentro la scatola, approvati, selezionati, tutti a posto e li do praticamente tutti in blocco, capito, ad una misera cifra, giusto per togliermi la mezza alle balle. Poi provo anche la RAM 48, però quello non lo posso dare perché ce l'ho in concessione. E allora lo tengo così. Va bene, mangia, dai che... questo microfono, non devo stemare niente, li sto pulendo solo, sto pulendo, mettendo dentro le bustine su, tutto ordinato, è perfetto. Ok, sono qua. Eia, fai tutto, dai, adesso mangio qualcosa e poi si vedrà. Nel caso che non ci sentiamo, ritieniti salutato, dai. Che devo cercare ancora sto tavetto, ma io dico, l'ho usato ieri notte lì, a un metro da me, in camera, sparito. Ti ho detto che è il diavolo che ci mette la checchia, capito? Tutto male mi deve andare a me sempre. E se lo cerchi già lo trovi, dai, non ti preoccupare. Avanti, Branco, cambio. Questo va bene lo stesso, fra, però io preferisco l'M300, c'ha la modulazione molto più bella, più corposa. Sì, lo conosco l'M500, mi ha volato uno anche io. Quello da tavolo flessibile con la funzione, ecco, però l'M300 è quello che prevale su di tutti e non c'è niente da fare, l'M300 è favoloso. Era nuovo, poi io ce l'avevo, ne avevo un altro, e quindi bene, ma a me piace più l'M300. No, VIP non la sento. No, non ce n'è. C'ho il VIP dietro, sì, già lo conosco. L'ho avuto quel microfono, mi pare l'avevo volato assieme a una radio vintage, adesso non me ricordo. Va bene, questa ti piace di più di quella che stavo provando stamattina alla radio del Ranger? Vabbè, il Ranger è normale. potete tenere. Così la regolazione è giusta, no Fra? No, questo c'ha anche il parlascolta, questo è stato fatto fuori, penso che l'abbia fatto oggi, ci insomma ricordo. Va bene, adesso lo posta, con questo e attacco il 8001 e così poi ho finito, vai. Ho provato tutti, sono tutti perfetti, funzionanti, alla grande, il microfono non trovo. Due, vabbè, di quelli modificati, dai, come questo, però i microfoni suoi già ci sono tutti, non c'è un problema, ci sono tutti quanti, va bene, ok, dai, fammi pulire questo microfono, fra poi se sei qua in ascolto, ti richiamo con l'altra radio, ok, con l'8001, così questo telefono metto dentro la scatola assieme a Ranger 2950, ok, gappa? Ehi, allora, così se devi fare qualcosa che tu la fai, dai, io sono qua, sto... ti pulisco questo microfono e mi fa schifo. Può vedere. 60. Oh, questo è guardando dietro, cioè, vedi, attacchi anche dietro, no, non c'è niente. Allora, aspetta che provo l'MB più 5 qua, a vedere se va bene, eh? Considera questa radio, questo microfono normale, eh? Superstar 3009, così li abbiamo provati tutti. Mentre l'8001 c'è qualcosa, esce con pochi watt, esce solo con 3 watt. Questa invece è 10, quasi 15 modulati. Ecco, e poi sta arrivando 7, modulato 8, sta arrivando, è buono. Aspetta, ti metto il microfono. Tu hai provato qualche altra radio? No, negativo, ho provato solo quelle due radio, quella vecchia e il precedente link. Ma adesso stavo provando i microfoni, stavo provando, no, di altro non ne ho provato, solo il Connex, però il Connex vuole, dovevo dare Antonello a farmelo mettere in linea, perché è sulle frequenze. Vabbè, ma lì ci vuole l'attrezzatura, fra, non è che... La gente mi mongo di guffia, vedi? Fra, lì ci vuole... Ci vuole l'attrezzatura, non è che lo puoi fare così, Ricordati sempre, per fare queste cose ci vuole la strumentazione per allineare il radio, non è che lo puoi fare con l'orecchio sopra la radio, assolutamente, capito? A sé che metto l'MBP5 a vedere se funziona bene questa radio. Hola. Sì. Questo è il mitico MB+5 e la radio è il Superstar 3009, ma non avevo dubbi, questo il microfono l'avevo comprato da Gigi Vulcano, dal caro Gigino, e funziona veramente molto bene, quindi funzionano tutte le radio, dai. Funzionano tutte perfettamente. Meno di più di modulazione funziona. Sì, noi mi interessava sapere se c'erano problemi in uno o nell'altra, capito? Solo per quello mi fa. Non è che mi interessava più di tanto, questo è normale. Superstar 3009, questo è normale. Questo spinge il microfono, questo va molto bene. Capo, sì, va bene. E questo del MB4 è buono, solo che devi abbinare anche la radio. Lo so, no, ma io ce le ho tutte abbinate, ad esempio con questo MB+5, allora ne ho... C'ho 2 più 4, 2 più 5, 2 terne più 3. E ogni baracchino ha il suo microfono col suo attacco, perché cambiano, soprattutto quello del DAT. Mentre invece con il Superstar li posso usare tutti con però l'adattatore, capito? Con l'adattatore. Infatti questo è l'adattatore del DAC, perché hanno lo stesso microfono, più o meno, dai. Va bene. Ma rasante nuova sta radio, è lucica, c'ha le cromature da favola, perché il 3009 è tutto cromato davanti, mi sembra una volta che ho mandato la foto, però mi gira le balle che non funziona lo Schmidt, né in trasmissione né in ricezione, quindi c'è qualcosa che qua ho toccato, perché c'è anche il rosmetro questo, certo non sarà lo contrario, esce a vedere, ora, cal, ah, eccoti qua, cazzo, era in cal, era la mazza che teneva aria, mi sembrava strano perché io non tocco mai niente, era in cal, eccolo qua, cal, SWR, ecco qua, e adesso dobbiamo mettere SRF, eccolo qua, adesso sta funzionando, prova a vedere quanto arrivi. Ecco. Sì, a vedere. Allora, sei riuscito a funzionare lo Smitter? Sì, Santiago 9, sì. Come arrivi col 440, guarda, quindi è perfetto anche lo Smitter. Sì, era in posizione calibrazione, perché c'ha il rosmetro, capito? era in posizione calibrazione, però girato al contrario il potenziometro. Ho messo il potenziometro dritto, ho messo in S barra RF e quindi adesso mi segna sia la trasmissione che la ricezione. Fra. Me l'ho immaginata che c'era qualcosa che doveva essere che non andava, perché lo smettere non è così di più, non è facile, volevo dire, non è facile che si continui così in fretta, così per da fermo, è possibile. No, sto usando il 80. Sì, sì, infatti arrivi come arrivi col 449, è abbondante, dai. Sei praticamente già sulla linea rossa del più, più o meno come arrivi col 440, quindi è a posto come situazione. Adesso devo fare controllare con l'8001, perché io li avevo conservati tutti a posto la radio, evidentemente lì si è bruciato qualcosa, perché la potenza è troppo bassa, mentre le altre sono tutte ora. Questo c'ha 10 watt, modulati quasi 15, il Typhoon lo stesso, il Typhoon 2, il Ranger lo stesso. Va bene, non problem. Ok, quindi abbiamo abbassato la gira, prudenti, chitti 4 baldracche, adesso lo metto tutta dentro la scatola e così domani mattina, tanto vanno in campagna, ce le porto in campagna. Ehi, capo, vai. Capo, io mi faccio la porta, adesso lo metto a prendere questo. Qual è? 80, no? Ehi, a quello lì, usa la mezzo. E niente, si mette a prendere di nuovo, mi faccio un baracchino. Ui, frate. Io l'ho detto, è morto un carissimo amico e sono andato a trovare, che poi l'ho saputo in ritardo, di Alghero, sono andato a trovarlo e a trovare la moglie. E a tutti i costi mi ha affibbiato la radio sua ed è un 440 lo stesso. E quindi c'ho quella, perché chiaramente non le posso mettere a prenderla, a parte il fatto non me la fotti un David. C'ho quella, c'ho la mia di 440 che è stata revisionata l'anno scorso, e il 430. Quindi immaginate tutte le linee complete. Due, quella che mi hanno regalato, il 440 e il 430, l'ho già messo dentro la scatola, mi ho tenuto solo il 440, ho diventato le colonnine. Un HF, il più piccolo, 756 Pro 2, e l'820H che mi fa VU, basta. Ho tolto una base, quella che c'era la parte della finestra, e adesso ho messo tutto dentro le scatole, tutto. Già ho 4 scatole piene di roba, ma anche roba pesante, e devo portare via tutto qua, capito? Tanto non li va a bene, blu più 0 sotto 0. E questi, adesso non so che cazzo fare con questi. E queste sono i due scatole, perché ho 6 microfoni da tavolo, tutti questi baracchini, tutte queste cose, un casino. Adesso li porterò in campagna, metterò lì, poi spero, tanto quest'estate, da maggio a settembre sono lì, perciò trovo se mi viene voglia di fare qualcosa la faccio, se no sarebbe lì a culo. Ehi, non è più lungo, non per me, mi ha su PMR, con il presidente Rinco già a Puglia, lungo con quello, metti un microfono. Sì, ho fatto un dono col baracchino, avremo bisogno proprio di trattare il 440 o cosa, non ce n'è niente. Non ce n'è più nessuno, non ne vale più la pena, assolutamente, qualcuno sta cercando di resumare i morti, ma a me mi pare che i morti quando sono morti rimangono morti, anzi iniziano a puzzare e quindi meglio lasciar perdere. E io oramai mi sono ritirato un po' da tutto, sono per i cazzi miei, fra ha detto ma andate in pensione, vaffanculo Gianco Maro, fa assolutamente, sono per i fatti miei, sto benissimo alla grande, mi godo la giornata come voglio io, mi organizzo come voglio io. E ti dico che la radio rimane spenta, non me la funziona adesso. Oggi mi sono dedicato a fare queste cose perché purtroppo devo fare. Che mia moglie ha detto io quella tanto non ci voglio manco mettere piede. Allora l'altro giorno ho smontato una base, quella che aveva fatto Giulio, ne ho lasciato una solo per appoggiare quello che mi serve e poi ne smonto anche l'altra. E si boccia un dutto, boh, fuori dalle balle. Vabbè, se c'hai una camera li buia sul capo, ora come ti danno sopra i buoi a comprare e tenerli sempre belli. È bella una camera bella arredata con quelle cose. Ehi fra, una camera, non è che agio di pigna, già è grande quella casa, per carità, però non è che voglio impegnare le cose come erano qua, capito? Qua 5,40 L, due piani, tutta bella organizzata come sempre, adesso ti ripeto tolto tutto, ma non è che ho dato pochissime cose, ho dato le cose che non mi servivano a gente che appunto collezionisti, a Roberto gli ha dato un po' di roba vintage, a Capri gli ha dato la linea Reclass da poco, che era funzionante lo stesso, un po' sorda, era diventata comunque funzionante, detto che sarà revisionava. Ma a regalo mi fa, no a Dinano, a regalo, capito? Regalata, roba regalata, queste non le voglio regalare, queste faccio un blocco che sono quasi regalate perché già le hai sentite, sono due corti favolosi, c'è il Ranger nuovissimo, c'è questo 3009 che sto modulando. Vabbè, lo faccio controllare qua se c'è qualche stronzata, però sto dando più tre microfoni da tavola, sto dando tutto a 350 euro proprio per portarsene via e togliermi la mezza ai coglioni. Ecco, vabbè, ja, va bene, ma io non è che poco lo so, come già sai, una volta che tiro fuori questo, non riesco, se tu lo davvero che mi sciuro, se ti dà come la faccio. Ah, ti faccio la foto dell'armadio con tutto quello che ho tolto, anche ciò in terra, ho due scatole piene di microfoni, di cavi, tutto di baracchini, microfoni da palmo, microfoni amplificati da palmo, tutti ci sono sui baracchini, tutti sopra le serie, tutto un casino. Se ti faccio la foto di cosa c'è ancora dentro l'armadio da togliere, vabbè, da Roma ne vedo 4 i baracchini, ci sono due da 48, uno modificato e uno normale, ci sono altri tre microfoni. Ci sono, mamma, strumenti, guarda, da dettagli ce ne sono quattro, di cui uno fa anche le VU e le UHF. È tutto pieno di roba, guarda. Il lineare della ZG, un altro linearetto, il 747, un altro 747, pieno di roba che non serve più a nulla, mondezza. Ecco, prende. Vabbè, tu, io te lo so che tu ne hai un mese roba, ma io praticamente non c'ho niente, c'ho poca roba. Io ho la voglia che non c'ho, l'unica cosa che non ci voglio buttare è questo qua, un MC70 con la radio, la radio grande, non passa, tutto il resto poi non me ne frega niente. No, vabbè, fra la MC70 perché lo vuoi dare, tienitelo, perché lo vuoi dare quello. Io una me la tengo, dovendo proprio andare male, preferisco qua sinceramente tenermi il 430 più che il 440, perché il 430 l'unico difetto che mi ha fatto si è bruciato di spreco, ma l'aveva cambiato Fabrizio. Poi per il resto non mi ha mai difettato quella radio, capito? Mentre il 440, vabbè, adesso la mia è tutta revisionata, è tutta mia. Questa estate abbiamo cambiato due relè, mi ha cambiato il cognato di Massimiliano, che è tecnico, cioè radiotecnico come Vittorio, due relè di commutazione perché andava a commutare, lo si tendeva nuda. sono andato a, le davo dei colpi e si riprendeva, allora sono andato da lui, l'ho aperta, c'erano due relè, praticamente filamenti che erano quasi rotti, sono andato al fusaro, li ho comprati, li ha modificati perché i piedini erano diversi, c'è stato un lavoro insomma da fare, e me li ha cambiati tutti e due, e adesso è a posto, perché poi tutti i condensatori, tutta la parte del VCO eccetera, quella è stata tutta revisionata l'anno scorso, capito? Ecco, sì. Poi ho fatto proprio due rosmetri, uno VEU e uno per la KF, e nuovi usati quasi niente, tutto a costo di 121 l'uno. Perché costano, anch'io ho gli strumenti, ce ne ho due della Daiwa, quelli a Daiwa incrociati, e sono costati 140 euro mi pare, o 150 euro l'uno. Però sono anche quelli dentro l'armadio, perché a me non mi piace avere strumenti in mezzo alle balle e niente, capito? Anche perché le radio io hanno tutta la strumentazione, anche il 440, sembra così, però l'indicatore ce l'ha, poi io ho l'AT230 esterno con la commutazione a 4 e quindi faccio tutto da lì, capito? Lo uso non come accordatore, perché accordatore non ne ho bisogno, lo uso come rosmetro e wattmetro, perciò non me ne frega niente. E ne ho uno solo di linea che era del 940 quello. Vabbè, fra un sacco di cose, senza farvi dare i portati una Giusei, sei professionali, sei, c'ho anche quello digitale, il portati che mi ha programmato Gianfranco, senza contare quelli, senza contare i ricevitori, senza contare quello, contare quell'altro, conta che ti conta, allora ti dà un po' tutto al gomodo. Sì, anche io ho quelli della live, quelli aria incrociata. Anche io ho comprato quelli lì, che sono, mi hanno detto che erano i migliori, e ho preso quelli lì. Sono i migliori. Sono i migliori come strumentazione, vai, ho sempre fatto bellissimi strumenti, professionali e a posto, fra, capito? E io ce ne ho uno di quelli che fa da 1,8 a 500, quindi fa VHF, UHF e HF, tutto. Fate tutto, l'hai incrociato con i suoi pulsantini che ti sposti, unico, però tenerlo esterno messo sopra la radio non mi piace, e quindi anche quella dentro la scatola è messo dentro, tu della ZG ne avrai giù 3 o 4, perciò, e sto svoltando tutto, perché ogni volta che entra, ancora qui ci sono da stamattina, togliendo il radio e provandolo, anche perché ho fatto una coglionata, prima di smontare la base dovevo provarmi tutte queste cose per appoggiarmi, invece le sto appoggiando una a una sopra il posto che ho, capito? Invece se avessi avuto l'altra base, invece l'ho smontata e portata già via, avrei appoggiato tutto lì, li avrei attaccati tutti, c'è un alimentatore unico, gli attacchi sono quasi tutti uguali, quindi sto usando un unico attacco, e invece mi do caccia a uno a uno, e ma fra poco mi mollo tutte, se abbia anche usato la Iana, e continuo domani. Ecco, sì. Ci vuole fare la radio, è un coso, lo faccio, un lineare, la 2131, e quello quando l'ho comprato gli aveva appena cambiato la valvola, nuova, e l'ho usato un paio di volte, il mio c'è ancora il lino, è nuovo lo stesso, 2131, anche quello c'ho, poi ne ho due da macchina, 747, lascia perdere, poi c'ho quello che avevo comprato da Vannino, grande, poi ce n'è un altro grande per la 27 lo stesso, poi c'ho quello per le VHF grande lo stesso, della Vectronic, vabbè, un sacco di goci e di una lampadi. Ecco, così è tutto di una lampada. Sì, vabbè, ma io con la valvolare non è che mi trovo molto. Infatti è una protezione, stavo per prendere uno transistorizzato, però poi non ho comprato più niente, i programmi ne vuoi. Ma guarda, è inutile di trattare. cosa ne fai? No, cosa ne fai? C'ho quello che ho preso a Vannino, l'FL2100, l'ho staccato e messo dentro l'armadio, anche quello, mi ha messo in terra, e anche quello parte, via, campagna. Dove è? Nulla, poi finalmente Andrea si è liberato, stava finendo una veranda, stava facendo un lavoro grosso, ha detto via, adesso devo darle la vernice, perniate, insomma la finisco e poi ci richiamo le anzette. No, amica, mattina, tempo bello, abbascio il dutto, me le stacca lui, abbasso tutto, fra le direttive, le metto dentro le scatole, ho le scatole mansarda e conservo anche quelle. E lascio momentaneamente solo la l'antenna della cosa, della 27, capito? E l'altra, questa 510 che ho, te l'ho detto, l'avevo già riparata una volta, però funziona, la smonto, la tengo di scorta, e in campagna metterò la 7000, ce l'ho nuova nuova, e boh, paromi, V e U e basta, boh, giusto per fare due chiacchiere sui ponti e basta. È una 27, già va bene. Fra una 27 ci vuole spazio, ho capito, è un casino. Facciata non metto niente, ti mando la foto, per cui era uno è migliore. No, non metto niente. E a quel punto lì avrei fatto il traliccio, come hanno tutti, le direttive ce le ho, grazie a Dio. E in punta avrei messo la manta, ma. Tanto guarda, l'ho messo io, stai pur certo che l'altezza è uguale a questa, ma uguale, precisamente, che tu considera che col portatile io parlo sull'R0, infatti ho gonto, c'è una X30 di quelle piccoline, appoggiata in 2 metri di palo in terra, perciò potrei fare anche così, ma mi devo decidere una volta per sempre, perché veramente non ho più gana di combattere con nessuno, non ho fatto più nulla. Sto bene, sai dire bene, come già lo stai provando tu, no? La libertà, le cose che non facevi prima, che adesso puoi fare, sono sempre in giro, mi sto dedicando a tante cose che non potevo fare prima, e quindi sto bene, sto veramente bene. E impegnarmi di nuovo con queste radio, me ne è passata la gana, mi fa. Lo so, ma non solo quello, anche tu lo stesso decidi, beh domani andiamo, io ho fatto una settimana all'Alghero, cosa che, cioè avevo anche preso le chiavi di casa di mamma all'Alghero, capito? Questa estate, una bella settimana proprio, a telefono il turato mi fa proprio fuori dal mondo, anche perché lì vabbè c'è mia sorella che non me ne fregava niente, però cose che non potevi fare prima, cose non potevi, la mattina io mi alzo, a me quando adesso la mattina non mi vedono al bar, io tutte le mattine alle 8:30 vado al Trisi, mi prendo le sigarette, vengo il giornale e faccio colazione, poi alle 9 rientro, prendo il cane, mi faccio un giretto col cane, se sono a casa, se sono a Sassa, se no tutte le mattine io vado con un bar a fare colazione quando sono in campagna, capito? Quella routine, e se adesso non mi vedono, a volte anche l'altro giorno che 2 giorni sono stato male, non sono preso a bombe di mal di gola eccetera, quindi non ci sono andato anche perché non stavo fumando, e avanti mi hanno detto cosa è successo, dove vedi, come mai, e qui e là, capito? Ormai sono abituato a vederti tutti di lì, no? Ehi, chiappa, ma dove stai andando? Quale bar stai andando? No, quando sono a Sassari vado al Trisbar in via Tempi, vado di Altrici, che c'è il giornale, no? Chiatta il giornale, sigarette, c'è il bar, tabacchi, faccio colazione e poi mi rientro. Quando invece sono in campagna vado lì da Columbano, a Canica. Ehi, chiappa, via Tempi, vai cammino, dai, nel terzo. È una traversa in Viale Dante, quella di Bosciolini. Dove c'è, è vicino a Fusaro, vicino a Fusaro praticamente, è vicino a Fusaro, all'angolo con Fusaro, ho capito, ma se c'è nella casa dove abiti tu? Lì un bel pezzo. Che casa che abiti, Ando? Ah, oh, madre di vecchia. No, oh, tutto in macchina faccio io. Non esco mai a piedi. Mi, se è bella giornata, esco in moto. Se no, se c'è freddo, esco sempre in macchina. Ah, in macchina e faccio tutto in macchina. Anche quando sono in campagna, no? E la campagna lassù, da Monte Oro Alto, non è che posso scendere a Colombo a piedi. Tutto in macchina a volte, me lo fruto assai. E qual bar mi sembra che frequenti il nostro amico mio? Che pensiamo da parecchio adesso, quello, ma che era Ballini, lavorata. Francesco Fessuri. Da Colombano? Sì, un bar che è lì, vicino alla via che hai detto tu, più avanti, appena appena, in una, alla, un bar all'angolo, rimane. Sì, a Franco lo conosco di vista, la protesto. Paroli, altri, vabbè, forse abbiamo orari diversi. Non l'ho mai visto al Cristo la mattina. Oh, io ci sto 20 minuti e mi fra, faccio colazione, te l'ho detto, do un'occhiata al giornale e poi me ne rientro perché poi porto il cane, una volta ho portato il cane, se mia moglie è a casa, rimane a casa, se no caricheggio in macchina e vado in campagna, capito? Sì, perché un giorno sono entrato in un bar, lì sono entrato, nel panangolo, fa il bar. Mi sono girato, c'era lui, eravamo solo parecchio tempo, un parecchio anni, l'anno che ci vedevamo. E poi un'altra volta ho trovato la pizzata. Ecco, Sì, ma è già... Qualche volta l'ho incontrato io, non al bar, l'ho incontrato lì in via 4 novembre, l'ho incontrato. Però al bar non l'hai visto, ti ripeto, magari abbiamo orari diversi, è per quello che non ho incontrato fra, capito. Ma c'è un buco di Marco? Marco Nino Condo, a Bisese. Oia. Sì, ho trovato il cavetto, buonasera a tutti. Ho trovato il cavetto, stavo ascoltando un po' le prove sul 20, poi di tanto cambiavo canale. Adesso qua, dai. Trispar, dopo Fusaro lì all'angolo, farà ricevitoria, tutto, ci puoi pagare il bollo auto, tutto li fanno. Sì. Questo è Superstar 3009, mio Marco, con l'MB più 5, questo è normale però, questo è normale, perfetto, lucido anche questo, bene va la modulazione? Sì, poi con la timbrica tua va ancora meglio, perché io mi sono ascoltato con la stessa configurazione, Superstar 3009 normale, MB più 5, però è la mia voce, è proprio brutta, c'è niente da fare, dai. Va bene, ho perso anche la cognizione del tempo, ma che ore sono? 8 meno un quarto, va bene, dai. Fra poco andrete a mangiare, eccetera eccetera. Io mi sto arrabattando col computer fisso che era fermo da un po' di mesi, quello di cui ti avevo mandato la foto, che ha detto lascia aprire il computer del comune, o cos'era, quelli di color beige, ti ricordi come ci siamo 90 anni fa? Io mi ricordo che sono 8 meno un quarto, dalle 3 c'è un bugiardo, non mi mettendo a posto. No, e adesso chiudo anche io, ho portato anche il cane, volevo mangiare il cane, il sugar. Se non mi dici tu mi ero anche dimenticato. Ma perché c'è Pedro Mido, lo vedo da qua, che è sempre addormentato, quindi. E adesso mi inizio a prepararmi. Le prove già me le sono fatte, no, questa è perfetta la radio Marco, ma l'MB più 5 poi, guarda, se funziona bene, io ce l'ho, ne ho 2, più 4, tale più 3, ne ho microfoni, però uso questo perché c'è il tono, lo regoli su diverse tonalità dei baracchini e funziona perfettamente. Pure la mia voce lo sai, no? Come ha detto Franco, lui è abituato a sentirmi sempre al top, io grazie a Dio ho un dono della natura, che non è l'uccello ma è la voce, vero Fra? Sarebbe stato meglio l'uccello, almeno l'avrei stennato. Va bene, dai. Sentiamo che mi stanno chiamando a mangiare. Buon così rubo tutto, ce ne ascoltiamo le prossime mille. Ciao Marco, mi dispiace Marco, tutti stavi riuscitando le orecchie, però io adesso me ne devo andare, devo mollare tutto. Ciao, buonanotte, e se coincide domani. Avanti Claudio, perché a te. Ehi Afra, grazie dei controlli, grazie di tutto, dai. Io non me l'ho manco accorto, va. E ce l'ho l'orologio qua, L'unica cosa che ho lasciato ancora appeso, con le cartine che poi devo togliere anche queste. Però non mi sono accorto che non ho guardato, erano già le 8:15, quindi chiudo anch'io, dai. Ciao Marco Lì, un abbraccio a tutte e due, grazie di tutto e ci sentiamo alle prossime. Vai Marco per i saluti a Franco, a domani se coincide, se no alle prossime occasioni. Ciao a tutti. Ciao Franco, ci sentiamo alle prossime. Claudio, idem, compattasse. Mi è sfuggita la battuta, la voce dell'uccello, com'è? Aspetta che mi sono distratto un attimo. Ho detto, siccome Franco stamattina quando stavo provando il Ranger non mi ha conosciuto, no? Ha detto io sono abituato a sentirti sempre al top con la tua solita voce, quindi con la solita voce kenwoodiana, no? Che dal 1986 mi porto appresso. E l'ha giudito Franco, anche se uso l'MB più 5, purtroppo mi ha dato, c'ho un dono della natura che non è l'uccello ma è la voce. Almeno la voce ce l'hai tu, io non ho né voce né uccello. E io gli ho detto, era meglio l'uccello, così l'avrebbe spennato. Io ho deficit più in voce, lui vabbè, per il resto lasciamo stare, ma certo non sono così freddi, ma non mi interesserebbe nemmeno, hai capito? Sarebbe un problema anche camminare con tre gambe come farò così freddi. Va bene, dai, buona serata a tutti, ci sentiremo, naturalmente non entrerò più per altri 2 mesi, dai, comunque non si sa mai. Ciao a tutti, ciao. E fatti sentire, dai, io ancora questi giorni già sono impegnato qua a casa che sto smontando, quindi fatti sentire, poi facciamo 2 chiacchiere. Ciao di nuovo a tutte e due, grazie, buon fine domenica, buon inizio settimana per domani, gappa gappa. Ehi, ciao ciao, ci sentiamo. Buonanotte a tutti, ciao ciao.